Le elezioni funzionano diciamo, sono di 577, che sono i collegi, i seggi che poi vengono attribuiti, i mini presidenziali, nel senso che in ogni collegio ci sono dei candidati che si scontrano in due turni. Se al primo turno nessuno supera il 50% dei voti espressi e anche però deve andare a votare almeno il 25% degli iscritti, diciamo, sulle liste elettorali, si fa il ballottaggio e poi chi vince prende il seggio e l'altro partito non prende nulla. Quindi, diciamo, le percentuali a livello nazionale contano fino a un certo punto, quello che conta sono quanto si è competitivi nei diversi 577 collegi in cui è diviso il territorio. E le elezioni sono andate un po' come previsto, nel senso che ci sono due grandi poli che si sono affermati, che è quello di Macron e quello di Mélenchon, il tribuno della sinistra radicale, che in realtà è riuscito a federare intorno a sé anche gli altri partiti di sinistra, che si scontreranno nella maggior parte dei ballottaggi. Quindi, diciamo, questa è un po' la situazione. Quello che può succedere, almeno secondo tutte le proiezioni, è che il partito di Macron, che comunque resta favorito, riesca a ottenere una maggioranza ma soltanto relativa, quindi non assoluta, in grado di governare da solo. Questo è quello che potrebbe succedere. E cosa comporterebbe per Macron perdere la maggioranza in Parlamento? Cosa non potrebbe fare? Ma dipende innanzitutto quali sono i rapporti di forza, perché una cosa ovviamente è non raggiungere la maggioranza assoluta per 5 seggi, un'altra è non raggiungerla per 20 o 30, ovviamente sarebbero cose diverse. Ha due strade davanti a sé: la prima è stringere un'alleanza strutturale con un altro partito all'interno del Parlamento e quindi fare un governo un po' diverso, cambiare un po' il suo programma e cercare però di avere una maggioranza stabile. Questa è la prima possibilità. L'altra possibilità invece è lasciare il governo che c'è in questo momento e quindi provare a fare un governo di minoranza, cioè andarsi a cercare i voti legge per legge nell'Assemblea nazionale. È un'ipotesi che ai macronisti ovviamente non piace, perché renderebbe tutto più difficile, però è una strada possibile. È già successo, diciamo, negli anni 80-90, è possibile. Una delle novità di questa tornata sembra essere il fronte della sinistra a cui accennavi, guidato da Mélenchon. Ecco, che cosa propone e che prospettive future ha questa alleanza inedita? Ma propone, diciamo, il programma è quello della France Insoumise, che è un programma molto duro, diciamo, dal punto di vista sociale. Propone di alzare le tasse sui patrimoni più ricchi e anche sui redditi più elevati. Propone di inserire il salario minimo a 1500 euro, un calmiere sui prezzi di prima necessità, insomma, anche in realtà poi tutta una serie di diciamo, cambiamenti nella postura internazionale della Francia. Mélenchon proponeva di abbandonare, propone di abbandonare la NATO, non obbedire più, dice, di disobbedire ai trattati europei quando non fanno gli interessi della Francia, che è una visione che porterebbe alla lunga ovviamente a un'uscita della Francia dall'Unione Europea, anche se Mélenchon questo ovviamente non lo dice, però di fatto non può funzionare così, che tu non puoi decidere di rispettare il trattato A, cioè la legge A e la legge B invece no. Questa è un po' la piattaforma programmatica. D'altro canto però è un'alleanza un po' contraddittoria, che si è tenuta insieme perché c'era questo grande obiettivo di provare a eleggere il maggior numero possibile di deputati all'Assemblea nazionale. Se mai dovessero andare al governo, le divisioni interne tra verdi, socialisti e appunto il partito di Mélenchon sono molto, molto grandi, e il motivo per cui poi non si erano riusciti a mettere d'accordo alle elezioni presidenziali, in cui erano andati in ordine sparso. D'altro canto però agli elettori questa configurazione piace, quindi è molto interessante vedere, sarà molto interessante vedere chi riuscirà a raccogliere i frutti di questa alleanza. Mélenchon ha 70 anni, quindi probabilmente, diciamo, non sarà lui, ma vediamo. Ecco, tirando le somme, ieri notte a Parigi chi è che è andato a dormire festeggiando e chi invece è preoccupato? Ma preoccupato sicuramente Macron, perché comunque il rischio di non prendere la maggioranza assoluta esiste e sarebbe un problema, renderebbe tutte le riforme molto più difficili. Diciamo, a vincere non ha vinto per la verità nessuno, perché Mélenchon diciamo, diceva di voler vincere le elezioni e diventare primo ministro ottenendo appunto la maggioranza assoluta. Difficilmente questo accadrà. Tra l'altro, secondo i voti espressi a livello nazionale, adesso che li hanno contati tutti, la sua alleanza arriva comunque seconda dietro la maggioranza presidenziale, quindi diciamo, non è una vittoria o un'affermazione pazzesca, però sicuramente rispetto a quello che ci aspettavamo due mesi fa, in cui sembrava che la sinistra non potesse nemmeno entrare in Parlamento, beh, è una configurazione molto diversa, questo sicuramente li renderà felici.